24 mattino. Buongiorno, buongiorno da Giulia Crivelli, benvenuti al nostro punto 24 mattino. Come sapete Alessandro Milan questa settimana è in vacanza, quindi io cercherò di sostituirlo degnamente. In questa prima parte, come sempre, abbiamo due ospiti che sono Angelo Maria Perrino e Carlo Rienzi del Codacons, Angelo Maria Perrino di affariitaliani.it, ai quali do il buongiorno e inevitabilmente come prima domanda gli chiedo loro se un po' si aspettavano questo risultato delle comunali. Sappiamo che ieri 1.004 comuni hanno rinnovato, sono i cittadini di questi 1.004 comuni, circa 9 milioni di italiani erano chiamati al voto, poi l'affluenza è stata abbastanza bassa, comunque gli aventi diritto erano circa 9 milioni. Nei quattro capoluoghi di provincia, che quindi erano più quelle le città dove si guardava più da vicino il risultato elettorale, per i 5 Stelle è andata molto male, sono fuori dai ballottaggi. Devo dire che ieri, guardando i giornali di ieri, quasi nessuno prevedeva un risultato così, erano tutti molto cauti, tranne forse il giornale che dava il Movimento 5 Stelle per perdente. Adesso naturalmente si aprono anche degli scenari a livello nazionale, però appunto prima Angelo Maria Perrino, che sicuramente forse segue la politica più da vicino, e magari appunto chiedo a lui se questo risultato lo ha stupito e se già potrebbe azzardare, visto che per ora soprattutto gli esponenti del Movimento 5 Stelle sono stati molto cauti nel commentare questi risultati, se già si può azzardare quello che succederà nei prossimi giorni. Buongiorno Angelo Maria. Buongiorno, buongiorno Giulia, eccoci. Ma io direi un risultato elettorale prevedibile, molto logico, forse come succede raramente, ma questa volta gli elettori sono stati conseguenziali all'evidenza di quel che accade, per cui abbiamo nel centrodestra un ritorno con una trazione leghista molto evidente, e questo era già chiaro a tutti noi, si vedeva Forza Italia stanca, indecisa al seguito di un Berlusconi incerto tra l'alleanza con Renzi e invece la ricostruzione di un centrodestra con Salvini. Ecco, e una sinistra un po' confusa tra Renzi e il renzismo di ritorno e i gruppi alla sua sinistra che vanno, vengono, si compongono, si ricompongono, e la grande sorpresa, ma neanche tanto grande, la sconfitta clamorosa dei 5 Stelle, che secondo me la vera notizia politica, come ho scritto ieri sera nel mio editoriale, che dimostra che i 5 Stelle sono stati, diciamo, come ho detto in altre trasmissioni con te Giulia, io lo dissi dai tempi della vicenda Raggi, che i 5 Stelle avevano dimostrato una incapacità di governare che li avrebbe ridimensionati. Così è stato. Ho fatto un paragone con i radicali, quando in Italia ci si appassiona dei movimenti di protesta, ma lo si fa così strumentalmente per lanciare segnali, poi con la stessa velocità li si abbandona e si torna al voto tradizionale, perché gli italiani sono tradizionali, e così sta accadendo. Ecco, Carlo Rienzi del Codacons, sei d'accordo? Cioè, perché a me aveva sempre stupito che di fronte alle prime incertezze, per usare un eufemismo, della giunta Raggi, comunque i sondaggi continuassero a dare il Movimento 5 Stelle addirittura in crescita. Certo, nel centrodestra e centrosinistra non si vedevano grandi alternative, però comunque c'era stato questa tenuta. Adesso invece sembrerebbe appunto non si è votato nelle città più grandi d'Italia, però è stato un test credo comunque significativo. Secondo te, sì, Carlo, è un primo segnale di un'inversione di tendenza nel consenso, che finora è stato crescente ai 5 Stelle? Ma io penso che dobbiamo ricordare da dove è nato il successo dei 5 Stelle, cioè dal rifiuto della politica, dai processi contro i consiglieri regionali in tutte le regioni d'Italia per i furti, le ruberie, i soldi che sparivano pubblici, gli scandali, e quindi la speranza degli italiani, soprattutto dei giovani, ma anche dei meno giovani, quelli che avevano per anni votato a destra, a sinistra, di un cambiamento. C'è la speranza che i 5 Stelle rappresentassero un cambiamento nella gestione della cosa pubblica nel senso dell'antipolitica. Poi è venuta la delusione, perché molti sono andati al potere, ma soprattutto i 5 Stelle stessi hanno dimostrato di non essere in grado di mantenere quel tenore di antipolitica che avevano. Voglio fare l'esempio: ieri a Roma c'è stata una manifestazione in piazza con 15.000 persone contro il decreto dopo ne parliamo. Sì, sì, no, per carità, però lo volevo portare come esempio di un atteggiamento. I 5 Stelle sono sempre stati per la libertà delle famiglie rispetto alle vaccinazioni. A un certo punto poi un articolo di un giornale americano li ha criticati e loro hanno detto: ah, no, ma noi non siamo a favore, dobbiamo obbligare tutti a vaccinarsi, eccetera. E non c'era nessuno in piazza ieri. E allora la gente, che poi quelli sono quelli che votano i 5 Stelle, cioè quelli che non vogliono essere costretti a fare una cosa, non vogliono essere un'altra volta portati come diciamo delle pecore a dare soldi a chi non li merita, eccetera, eccetera. Invece non hanno visto nei 5 Stelle evidentemente questo sostegno, questo atteggiamento di andare contro quelle che sono le lobby, quelle che sono i grandi poteri forti americani. Poi c'è stato il caso delle firme false a Palermo, cioè al di là della questione vaccini che poi ne parleremo, però siccome proprio dicevi erano partiti da una posizione di antipolitica e poi ci sono state, per non parlare delle lotte interne che sono anche quelle le nomine a Roma politica. Che non si sa, ha favorito quella, ha favorito quell'altra, con quelle, cioè cose che non ci si aspettava, perché ci si credeva in loro come diciamo puri assolutamente esenti da quelle mende che sono invece tipiche della politica tradizionale. Questa è un po' la delusione. Adesso vediamo, certo, loro se sono capaci di e fare una correzione di rotta, possono sempre riprendersi. Ecco, Angelo Maria, forse questo è molto interessante, no? Vedere se adesso ci sarà un mea culpa serio e non un scaricare, come è stato per esempio per il fallimento della legge elettorale, scaricare le colpe su qualcun altro senza prendersi le proprie responsabilità. Sarà interessante vedere se c'è appunto un'autocritica o magari addirittura qualche dimissione o qualche passo indietro di chi ha guidato la linea e le strategie del movimento in queste ultime settimane? No, io credo che non ci sarà nulla di tutto questo e che assisteremo a una implosione progressiva, perché il Movimento 5 Stelle non c'è, non ha una governance, e ha perso un fattore di lungimiranza, ma allo stesso tempo di equilibrio con la morte di Roberto Casaleggio, il fondatore. Casaleggio non ha eredi all'altezza. E il Movimento 5 Stelle è in mano a un comico che io apprezzo molto in quanto comico, sia chiaro, ma rimane un comico, un situazionista, come si diceva una volta, cioè i situazionisti sono quel movimento politico filosofico delle torte in faccia, no? Grillo è così, è uno da torte in faccia, non dimentichiamolo. E questa natura sta venendo fuori con chiarezza, l'abbiamo visto nel caso della vicenda della riforma elettorale, dove ha perso due volte. Ha perso la prima volta quando si è seduto al tavolo e gli è stato contestato un approccio inciucista, ha perso la seconda volta quando si è ritirato e gli è stato contestato il dietrofront, il tradimento pazzesco, incredibile, certo. E quindi Grillo, ripeto, non è d'altra parte il movimento gli è cresciuto nelle mani suo malgrado, lui lo ha detto a un certo punto: voglio lasciare, lo diceva per fare un passo indietro poi laterale, sono stufo dei grillini, io non voglio recuperare la mia libertà. Ripeto, Grillo è un situazionista da torta in faccia, dopo di lui c'è il vuoto. La sola idea che qualcuno ritenesse credibile e realistico candidare premier un giovane trentenne come Luigi Di Maio, con tutto il rispetto, ma che non ha mai amministrato neanche il suo condominio, è qualcosa di mostruoso. Ecco, Carlo, voi questa settimana o tutte le volte che vengono dati dei dati economici giustamente commentate, questa forse alcuni ipotizzano che anche l'intervento a Rapallo davanti ai giovani industriali di un Davide Casaleggio che ha detto quelle che sono sembrate veramente delle banalità abbia potuto avere il suo peso, quindi forse veramente si sta cominciando a ragionare sui numeri, sulle cose concrete e meno sulla pancia, sull'emotività. Molti di noi condividono il sentimento diciamo che è alla base dell'antipolitica, cioè la rabbia per una classe politica che non ci sembra all'altezza di affrontare una crisi come quella italiana, però forse appunto c'è questa inversione di tendenza, la gente comincia a ragionare sui dati concreti. Ma non credo che sia questo il motivo del calo dei 5 Stelle, perché non credo che la gente guardi ai 5 Stelle come possibili interpreti corretti dei problemi economici del paese. E credo che se ne freghi altamente del fatto che i 5 Stelle propongano una certa riforma o un'altra, cosa che nemmeno fanno, perché a parte il reddito di cittadinanza, se uno dovesse dire che cosa sai certo. dei 5 Stelle che hanno proposto su grandi problemi dell'economia, sarebbe un po' difficile rispondere, dico anche io avrei difficoltà a rispondere. Quindi credo che tutto sia da ricondurre a questa crisi della fiducia nell'antipolitica dei 5 Stelle. E sono continuate le corruzioni, ci sono stati i reati anche da parte degli esponenti dei 5 Stelle, cosa che è del tutto naturale, perché poi è illusorio pensare che solo perché sei 5 Stelle non puoi incorrere in un reato penale se stai per esempio amministrando una città. Questo è chiaro che Paraggi fa il sindaco, chissà quanti processi avrà, però ecco, quei tipo di processi che sono legati poi all'amico, alla clientela, cioè quello che fa venire meno proprio la base ideologica, tra virgolette, o psicologica, votati, se certo. vuoi, dell'adesione ai 5 Stelle. Va bene, ci fermiamo un attimo per il traffico e poi torniamo sulla questione vaccini e la manifestazione di ieri a Roma. Il traffico. Mattino. Perché si passa da 4 vaccinazioni obbligatorie a 12? Perché facciamo queste domande? Su una cosa noi non patteggeremo mai, la libertà dei nostri figli è intoccabile, ricordatelo sempre, giù le mani! Lei prenderebbe 12 malattie così forti tutte insieme? I paesi più importanti d'Europa, i paesi più avanzati hanno scelto l'adesione volontaria. La Lorenzina ha fatto esattamente l'opposto, ha mandato giù la farmacovigilanza, non ha investito e adesso propone addirittura 12 vaccinazioni obbligatorie senza indagare sui potenziali rischi del carico vaccinale aumentato. E rieccoci ancora, buongiorno da Giulia Crivelli, buon lunedì. Queste che avete sentito erano alcune delle voci raccolte ieri alla manifestazione che c'è stata a Roma, tra le 10 e le 15.000 persone in piazza per protestare contro il decreto Lorenzin, che come avete sentito ha portato l'obbligo di vaccinazione, quindi senza la vaccinazione i bambini poi non possono essere iscritti a scuola, dai 4 precedenti ai 12. Il Codacons, Carlo Rienzi è qui con noi che ce lo può spiegare meglio, ha lanciato una petizione per cancellare questo decreto. Ora, io credo che non sia un obbligo come tutti gli altri, né una libertà come tutte le altre, quella di vaccinare. A chi dice che, questa è la mia opinione, a chi dice che in alcuni paesi come la Svezia, avete sentito, nonostante la mancanza di obbligo, il tasso di vaccinazione sia molto alto, io purtroppo rispondo che in Italia molte cose o le si impone oppure le persone non le fanno. Tra quelle serie penso alle cinture di sicurezza, che finché non c'è stato un obbligo con tanto di multa nessuno voleva mettere, ben sapendo che salvano la vita in moltissimi casi, ma anche una cosa più semplice come per esempio pulire quando il proprio cane sporca in uno spazio pubblico o non pubblico o riservato ai cani. Se non ci fosse l'obbligo e la multa, questa cosa non sarebbe successa, si è diffusa solo in quel caso. Quindi questo è il mio dubbio personale, oltre al fatto che comunque la maggior parte dei medici concordano nel dire che i vaccini, come qualsiasi cura medica, hanno un rischio, ma i vantaggi sono più dei rischi. Però Carlo, Carlo, se vuoi spiegarci meglio, cosa vi ha portato a lanciare questa petizione. Sì, c'è un equivoco, cioè i vaccini sono utili, indispensabili, ma qui la Lorenzin ha esagerato, cioè non si può il trattamento sanitario coattivo, cioè immettere nel corpo umano di bambini appena nati una sostanza chimica che il più delle volte contiene anche metalli pesanti che hanno possibilità di reazioni avverse, è qualcosa di diverso di far mettere la cintura di sicurezza, cioè è un trattamento sanitario coattivo che come tale deve avere delle regole diverse. Non si può, soltanto il fascismo, il nazismo prendeva la gente, li metteva in fila e gli faceva i trattamenti sanitari coattivi. Come mai in Francia ci sono solo 3 vaccini obbligatori e noi siamo stati con 4 vaccini obbligatori per 30 anni praticamente e siamo sempre rimasti al 95% di copertura. Questa legge adesso farà calare la copertura vaccinale, perché dare 1 miliardo alle società farmaceutiche, mettere alla testa del Ministero della Sanità persone come un direttore generale che dal curriculum risulta fare parte della Fondazione Glaxo, cioè di quelli che producono i vaccini. Attenzione, la Fondazione Glaxo non è la Glaxo, la Fondazione Glaxo si occupa anche di altre cose. Io ho capito, però. Insomma, e ricordo anche, Carlo, per correttezza, tu lo sai sicuramente, che non è con i vaccini che le case farmaceutiche guadagnano, perché i vaccini sono dei farmaci su cui i margini di guadagno sono abbastanza bassi. Quindi questa cospirazione Big Pharma. Ma sono farmaci che vengono dati a chi è sano, cioè non so se mi è una cosa diversa. Ma questa è la logica del vaccino, la dai a una persona sana perché sviluppi degli anticorpi per combattere l'eventuale malattia. Ma non è vero che non guadagnano con i vaccini e non è vero che chi fa atti amministrativi inerenti a una certa materia per legge non deve avere rapporti finanziari o di interesse con chi produce quelle merci. Cioè questo è un principio sacrosanto. Sì, non devo si dire può che sulla segnalare reazione forse quasi emotiva della Lorenzin pesa sicuramente la crescita esponenziale della diffusione del morbillo nel nostro paese, che è quello che ha innescato il famoso articolo del New York Times, dove anche in modo un po' semplificato obbliga a fare la vaccina al morbillo, ma 12 vaccini tutti insieme. No, ma sono d'accordo con te che c'è un'esagerazione. I vaccini devono essere poi singoli, cioè se io ho una incompatibilità, come il mio bambino ha un'incompatibilità verso il tal vaccino, tu non me li puoi mettere insieme come politica industriale che ha portato a tanti profitti e obbligarmi a farli tutti insieme come è stato fino adesso. Ecco, tra l'altro fai sparire l'antidifeteritico dal mercato, per cui se io voglio fare quello che mi serve veramente o ne faccio adesso 6, poi forse 12, oppure non lo faccio. Sì, questo, cioè, purtroppo è gravissima. No, questo purtroppo è sempre. Spesso capita in Italia che poi una legge, magari anche con buone intenzioni, poi ha delle storture interne come quella che dici tu, cioè che uno dei vaccini non è più disponibile. Comunque noi volevo dire, mi hai chiesto della petizione, noi sul nostro sito chi vuole può aderire a una petizione contro questo decreto legge, se raggiungeremo tantissime adesioni presenteremo poi una eventuale referendum abrogativo, ma non credo che passerà mai questo decreto legge, anche perché i partiti adesso capiranno che ci sono milioni di italiani che si ribellano, vogliono essere trattati almeno come i francesi, ecco, non dico di più. Ecco, Angelo Maria, tu cosa pensi? Pensi che insomma ci sia, io ricordo questa bellissima copertina di Internazionale, che poi è la traduzione integrale di un'inchiesta di Science, quindi non proprio un organo così ascientifico e neanche troppo scientifico, perché ha comunque anche intenti divulgativi, su Internazionale del 12 maggio, dove si parlava appunto della diffidenza verso i vaccini e di come a volte combattere la disinformazione sia molto molto difficile. Tu cosa pensi di questo decreto che effettivamente porta, triplica in un colpo solo il numero di vaccini obbligatori e ha suscitato parecchi insomma molto discontento anche tra chi magari i vaccini precedenti li avrebbe fatti senza colpo ferire? Ma io sono assolutamente d'accordo con l'avvocato Rienzi, cioè mi sembra una legge abnorme, non giustificata da alcuna epidemia e da alcuna emergenza. Secondo me lo zampino degli interessi fa capolino con evidenza.